Noi sappiamo che il mondo è costruito o è distrutto sia da grandi azioni, sia da piccole azioni, o meno da gesti che sembrano piccoli. Abbiamo sentito nel primo libro di Samuele, al capitolo 18, che si parla di una virtù e si parla di un vizio. Una volta, quando si faceva catechismo seriamente, quando eravamo piccoli, si parlava dei vizi e delle virtù. Oggi non si sa più che cosa siano. Una virtù è un atteggiamento del cuore, dell'anima, che fa crescere te e chi sta attorno a te. Un vizio è un atteggiamento del cuore che distrugge te e chi sta attorno a te. Abbiamo sentito la virtù dell'amicizia tra Davide e Jonathan. Non mi soffermo stasera perché ricorre ancora altre volte nel libro di Samuele ed è un'amicizia molto bella, molto ricca, con la condivisione delle proprie cose. Qui vediamo Jonathan che fa, essendo anche più ricco, il figlio del re, che fa dei regali a questo figlio di pastori invece, no? E nello stesso tempo vediamo un vizio tremendo, tremendo, tra i peggiori che ci siano, ed è la gelosia. Vediamo Saul che si ingelosisce del successo di Davide. Saul era un grande guerriero, ma Davide lo sorpassa e la gente lo riconosce. E allora Saul si ingelosisce e i libri della Bibbia raccontano come cerca in tutti i modi di farlo fuori. È interessante leggere la storia di Saul e di Davide, cari amici. Ancora una volta la Bibbia nell'Antico Testamento si dimostra un grande insegnamento. E a quanto pare la gelosia non è solo delle donne, come magari i maschi sono tentati di pensare. È fortissima nelle donne. Forse non c'è nessuna donna che ne è esente, forse. Ma anche i maschi non scherzano. Basta vedere, più si va avanti nel potere e più si diventa gelosi degli altri. Un esempio proprio questo: le persone che hanno potere, maschi, si ingelosiscono tremendamente. E allora vorrei dire una parola sulla gelosia, perché tante volte mi arrivano, ripeto, donne che mi cercano come esorcista dicendo: a me va tutto male, a me, perché o sono bella o sono ricca, ho un bel matrimonio, dei bei figli, la gente si ingelosisce. E io le tranquillizzo, dico: guarda che la gelosia non fa nessun male. La gelosia fa venire solo il mal di fegato a chi ce l'ha, ma non ti fa nessun male a te che sei l'oggetto della gelosia, a meno che uno non trasformi la sua gelosia in un maleficio. E purtroppo ci sono, no? Io lo vedo tante volte nelle famiglie, le mamme che non vogliono che il proprio figlio o la propria figlia sposi un uomo o una donna, diverse volte, ma più di quello che si pensi, vanno da maghi, vanno da fattucchieri e fanno delle fatture contro la sposa o contro... E sono cose veramente tremende, queste sì che sono peccati che gridano contro Dio, perché tu chiami dentro nel tuo rapporto con gli altri non solo il tuo sentimento, ma tu chiami Satana e dai a lui il potere. Quindi, amici, chiediamo al Signore che ci renda capaci di crescere nelle virtù, non solo l'amicizia, ma tutte le altre virtù, sarebbe bello ripercorrere le virtù umane, ma anche le virtù cristiane, e che ci renda capaci di combattere contro la gelosia, che è un nemico mortale, è un nemico diabolico che ci avvelena il cuore il più delle volte fino alla fine della vita. Conosco persone che non sono capaci di uscire dal loro atteggiamento geloso per decenni.